Diventa anche tu critico letterario e vieni al premio Strega con Radio 24. Vai su radio24.it e scegli la tua cinquina del premio Strega tra 12 libri finalisti, indicando quale libro vorresti che vincesse e il perché. Le 5 recensioni migliori verranno selezionate dalla redazione di Radio 24. Sabato 30 giugno alle 21, puntata speciale del Cacciatore di Libri. Vi sveleremo chi sono gli ascoltatori che si sono aggiudicati un posto al tavolo di Radio 24 per la serata di gala della premiazione che si terrà a Roma giovedì 5 luglio.